Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se si facesse avanti Giorgia Meloni, per me il problema non si porrebbe, il candidato sarebbe lei. Così disse Salvini, leader della Lega, perché è ancora in alto mare, diciamo, il centrodestra per quanto riguarda la candidatura a sindaco di Roma, nel senso che Berlusconi e Giorgia Meloni, quindi Forza Italia e Fratelli d'Italia avrebbero scelto, lo sapete da giorni, Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile. Però Salvini prima aveva detto di sì, dopo qualche giorno invece si è ritirato, ha cominciato a essere un po' dubbioso, ha fatto un po' questo fine settimana un sondaggio tra 15.000 romani che hanno votato ai banchetti della Lega. Sono venuti fuori una sostanziale parità tra Marchini, Irene Pivetti, poi c'era anche Bertolaso, qualcuno anche aveva citato Giorgia Meloni. A questo punto avete sentito, la sua candidatura ufficiale è Giorgia Meloni, anche se lei non è candidata, quindi diciamo è più che altro un invito. Allora a questo punto vi chiedo, prima poi di sintetizzarvi la giornata e quali sono gli argomenti principali di questa sera, vi chiedo: a Roma a questo punto, in questa incertezza, diciamo così, del centrodestra per un candidato forte ufficiale, voi chi vedreste tra i nomi che sono stati fatti o tra quelli che potrebbero essere anche suggeriti a Salvini e agli altri? Sapete che i due modi per intervenire qui a Effetto Notte e interagire sono sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, prima di tutto, e poi SMS e messaggi al 349-238-6666. Ve lo ripeto più volte durante la trasmissione, perché tanti, magari milioni e milioni, accendono in momenti diversi la radio e su Effetto Notte, quindi Effetto Notte, pagina Facebook, oppure 349-238-6666. Vi chiedo quindi a questo punto, voi chi vedreste come buon candidato o candidata per il centrodestra a Roma? Se invece volete allargare ulteriormente gli orizzonti, visto che dal Super Tuesday di ieri negli Stati Uniti sono venuti fuori, dall'evento principale delle primarie in vista delle presidenziali americane dell'8 novembre di quest'anno, sono trionfati sicuramente per la parte repubblicana Donald Trump e per i democratici Hillary Clinton. Voi chi vedreste come presidente degli Stati Uniti? Chi vedreste meglio alla guida dello Stato, ancora quello che è più potente del mondo? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, potete rispondere anche su tutte e due le domande, sia sul candidato ideale per il centrodestra a Roma, sia per il candidato ideale, presidente ideale per gli Stati Uniti. Intanto vi dico che poi parleremo anche di questo allarme abbastanza inquietante dai servizi segreti italiani per quanto riguarda il rischio dell'Italia al terrorismo islamico. Ci occuperemo naturalmente anche di calcio, di molte altre cose, ma cominciamo con il riassunto della giornata. Terrorismo, allarme di 007, rischio terroristi fra migranti dai Balcani, e l'Italia è più esposta alla minaccia della Jihad. Stati Uniti, nelle primarie del super martedì trionfano Trump e Clinton, è ormai quasi una corsa a due, ma Sanders e Cruz resistono. Spagna, il congresso boccia l'investitura primo ministro del socialista Sanchez. L'omicidio stradale è legge, al Senato votata la fiducia, inasprite le pene per i pirati della strada. Il delitto di Giulio Regeni, l'Egitto cambia versione, dietro la morte ci sarebbe il terrorismo islamico, alcuni documenti sulle indagini consegnate agli italiani ma solo in arabo. Fondi per la ricerca, Renzi annuncia finanziamenti per 2 miliardi e mezzo, l'annuncio dal laboratorio di Pomezia che ha isolato il virus contro l'Ebola. Editoria, nasce il primo gruppo in Italia dalla fusione tra Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX. Calcio in Coppa Italia, semifinale tra Inter e Juventus. Partiamo quindi dall'allarme lanciato dalla relazione annuale dei servizi segreti sull'esposizione dell'Italia al rischio terrorismo islamico. Il rapporto parla anche di una possibile ripresa dell'eversione interna e un rischio in generale di nuove azioni del terrorismo islamico in Europa, ma di questo ci occuperemo più tardi con un esperto di terrorismo. Intanto vedo l'Inter, ecco l'aggiornamento, Inter 1-0 sulla Juventus nella Coppa Italia. Ma ritorniamo su notizie, diciamo, più ponderose. Stati Uniti, la partita non è ancora chiusa per le presidenziali, né a destra né a sinistra, ma il Super Tuesday, come dicevo, consegna un quadro chiarissimo. La corsa per la Casa Bianca è sempre più una corsa a due: Donald Trump da una parte, Hillary Clinton dall'altra. Se le primarie del 15 marzo prossimo in stati chiave come la Florida e l'Ohio finiranno a loro favore, come promettono i sondaggi, i giochi saranno probabilmente fatti. Per i loro avversari, nel Super Martedì in cui si votava in 12 stati, non c'è stato molto da fare effettivamente. I due front runner, per appunto Trump e Clinton hanno conquistato 7 stati ciascuno e incrementato in maniera consistente il numero di delegati, quelli che poi li voteranno nella convention repubblicana e democratica di fine luglio. Sui due fronti gli unici che tentano disperatamente di resistere sono tra i repubblicani Ted Cruz e tra i democratici Bernie Sanders. Dalla Spagna il leader del Partito Socialista Spagnolo, Pedro Sánchez, non è riuscito a ottenere la fiducia del Parlamento all'incarico di governo di primo ministro per porre fine a settimane di incertezza in Spagna dopo un'elezione senza un vero vincitore. I due principali partiti rivali hanno votato compatti contro la fiducia a Sánchez, bocciato con 219 contrari, 130 favorevoli e un astenuto. Sánchez, il cui partito è arrivato secondo il Partito Socialista alle elezioni del 20 dicembre, dovrà affrontare un secondo voto parlamentare in cui avrà bisogno di una maggioranza semplice dei voti per diventare premier. Sulle notizie italiane adesso, con l'omicidio stradale che legge, al Senato è stata votata la fiducia, i voti a favore sono stati 149, 3 i contrari, 15 gli astenuti. Si chiama omicidio stradale, ma riguarda anche chi causa incidenti con feriti. La legge approvata oggi pomeriggio, dopo 6 anni di dibattiti, 5 passaggi parlamentari e 2 voti di fiducia, inasprisce le pene per tutti i sinistri in cui c'è un morto o un ferito e una violazione del codice della strada ritenuta grave. Così, quella che finora è stata la pena minima, 2 anni in caso di omicidio, resta solo per chi commette un'infrazione ritenuta non grave. Si va invece da 5 a 12 anni per i casi in cui si guida sotto effetto di alcol o droga, o a velocità doppia del consentito in città, o in eccesso di velocità di almeno 50 all'ora fuori città. Idem per sorpasso con striscia continua sulle strisce pedonali, contromano, inversione in curva o dosso. Si potrà arrivare a 18 anni se si guida un veicolo non assicurato, se non si ha la patente o la si ha sospesa o revocata. Pene dimezzate quando il conducente non è l'unico responsabile delle conseguenze del sinistro. La legge contiene poi tutta una serie di ulteriori inasprimenti, da segnalare i prelievi coatti per accertare lo stato di ebbrezza o di alterazione da droghe e l'arresto in flagranza del guidatore responsabile dell'incidente. Maurizio Caprino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci torniamo poi dopo, anche per gli aspetti politici di questo voto. E ci sono state anche le proteste, per esempio, del Movimento 5 Stelle per l'ennesima fiducia, proteste del Movimento anche sul decreto mutui. Il governo annuncia, sono possibili delle modifiche. La protesta esplode di mattina in commissione e prosegue nel pomeriggio in aula. Il Movimento 5 Stelle si oppone con forza alla direttiva europea sui mutui, che permette alle banche di espropriare l'immobile senza passare dal tribunale se si pagano in ritardo 7 rate anche non consecutive. La casa non si tocca, scandiscono i 5 Stelle, che prima bloccano i lavori della commissione finanze alla Camera, dove si discute il decreto che recepisce la direttiva. La seduta è rinviata a domani. E poi, nel pomeriggio, espongono cartelli in aula durante il question time. Alessandro Di Battista. Toccano pure i patrimoni di cittadini italiani. Bene, non entrano. Non entrano in commissione se non ritirano questo decreto. Se non si alzano i toni, passano le porcate. Dal governo l'apertura del viceministro all'economia Zanetti. Siamo disponibilissimi a correzioni, annuncia. Per il capogruppo PD alla Camera, Rosato, è una messa in scena inaccettabile quella dei 5 Stelle, che invece trovano la sponda di Forza Italia che parla di governo miope. In campo anche l'ABI. Il rischio di espropri è una possibilità che non riguarda il passato, chiarisce il presidente Patuelli. Guarda solo eventualità lasciate alla libera contrattazione fra le famiglie da una parte e singoli istituti bancari. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso di ricerca. Nelle prossime settimane partirà un piano per la ricerca da 2,5 miliardi. L'ha detto oggi dal laboratorio dove è stato isolato il virus contro l'Ebola Matteo Renzi, rispondendo indirettamente a una petizione appello per portare la spesa relativa alla ricerca al 3% del prodotto interno lordo. Un paese che si è rimesso in moto, quello tratteggiato dal presidente del Consiglio Renzi. Il premier rimanda allora ai dati diffusi dall'Istat. Crescita, occupazione, conti pubblici, ma non solo. Il tessuto produttivo italiano è quello che fa la differenza, fa capire Renzi, visitando alcune aziende del distretto industriale di Pomezia. Gente che rischia e scommette sull'innovazione. C'è ancora molto da fare nel paese, ci sono ancora tante riforme da fare, tante cose da cambiare. Però l'Italia è questa cosa qua. È l'Italia che quando si rimette in moto può essere leader mondiale. Finalmente si tornerà ad investire, dice ancora Renzi, annunciando un piano per la ricerca da 2,5 miliardi. Altro capitolo, quello degli appalti pubblici. Domani l'arrivo in Consiglio dei Ministri del nuovo codice. L'obiettivo, spiega Renzi, è quello di dare certezza nei tempi. Perché se un'opera che deve partire un certo giorno parte 15 anni dopo, è naturale che partano poi le polemiche sui costi, sulle varianti. Sul fronte tasse interviene quindi il ministro dell'Economia Padoan. I tagli sono un segno distintivo del governo, ma devono essere credibili e sostenibili. I contratti a tempo indeterminato, aggiunge il ministro del Lavoro Poletti, continueranno a costare meno. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torniamo sul caso Regeni. Ogni giorno c'è una specie di novità, diciamo così, dall'Egitto. Adesso c'è questa nuova versione sul caso di Giulio Regeni. Questa volta fonti della Presidenza parlano di terrorismo islamista. La Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano, conferma invece l'arrivo dei primi documenti ufficiali, seppur in arabo. Stavolta si tira in ballo pure il terrorismo. Dall'Egitto filtra l'ennesima versione sulla morte di Giulio Regeni e ora la pista è quella jihadista. Il terrorismo islamico cerca di danneggiare i rapporti con altri paesi, dice una fonte della Presidenza egiziana, una fonte considerata di alto rango che vede nell'uccisione del ricercatore un disegno politico e affianca il delitto all'abbattimento del jet russo con i turisti del Mar Rosso. Attentati, cioè, per danneggiare le relazioni dell'Egitto con Russia e Italia, ipotizza il presidente al-Sisi e il premier. I tentativi dei terroristi falliranno perché i rapporti italo-egiziani sono radicati, assicura però la stessa fonte interna alla presidenza, che considera esaustiva l'inchiesta aperta al Cairo. Un'inchiesta che, al di là dell'annunciata collaborazione, non sta in realtà coinvolgendo i nostri investigatori sul posto, che potrebbero essere per questo richiamati in Italia. Fino ad ora, infatti, quelle arrivate dall'Egitto sono state solo verità di comodo, dall'incidente alla droga alla vendetta personale fino al terrorismo. Così, più di un mese dopo, ancora non c'è una verità per Giulio. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora l'Iraq, la Farnesina informa che è stato firmato il contratto della ditta Trevi con le autorità irachene per i lavori di consolidamento della diga di Mosul, di cui si parlava già da qualche tempo, in seguito a un intenso negoziato tra l'azienda e le autorità irachene a Baghdad. Adesso di nuovo sulle notizie strettamente italiane. Oggi è stata annunciata la nascita del più grande polo editoriale italiano, con la fusione di testate storiche quali Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX e numerosi giornali locali del gruppo Espresso. Ci faremo spiegare più tardi il perché di questa fusione e anche la portata di questa azione. Cronaca: è stato condannato a 10 anni di reclusione più 3 di libertà vigilata Giuseppe Franco, militare della Marina di origine calabrese, accusato di aver stuprato una ragazzina di 16 anni nella notte tra il 29 e il 30 giugno in un prato nei pressi di Piazzale Clodio a Roma. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il militare si sarebbe avvicinato a un gruppo di ragazzine ferme ad aspettare l'autobus, esibendo un tesserino per accreditarsi come rappresentante delle forze dell'ordine, e si era fatto poi seguire dalla vittima. Per chiudere c'è il calcio con Dario Ricci e la sfida tra Inter e Juventus, semifinale di Coppa Italia. Dario, già con un gol dell'Inter. Sì, informatissima Roberta, come sempre. Siamo al 26esimo sotto il diluvio di San Siro. L'Inter, lo ricordiamo, deve rimontare il 3-0 dell'andata, ma è partita molto bene. Al 16esimo il gol di Brozovic, che ha sfruttato un pasticcio tra il portiere bianconero Neto e l'ex interista Hernanes per firmare appunto il vantaggio nerazzurro. Nerazzurri vicino al raddoppio al 24esimo con un bel destro di Ljajic, che ha scheggiato la traversa della porta bianconero. Di tutt'altro tono invece le notizie che arrivano dalla Francia in vista di Euro 2016, Roberta, che partirà il 10 giugno. Allarme terrorismo crescente, ha rivelato una fonte all'agenzia ANSA, anche per quanto riguarda la delegazione e la squadra azzurra, e sembra probabile che, in caso di minacce verificate e allarmi concreti, alcune partite potrebbero svolgersi addirittura a porte chiuse. Addirittura, come condizionata la nostra vita. Grazie Dario Ricci. Questo rientra un po' nella relazione dei servizi segreti sul rischio a cui è esposta l'Italia per il terrorismo islamico. Direi che è il momento delle notizie extra. Gorilla e uomo sono più simili del previsto. Qualcuno aveva detto, ma già lo sapevo. Il DNA dell'uomo e quello del gorilla sono più simili di quanto ipotizzato finora. Lo rivela il cromosoma maschile Y. Non per niente, gli uomini somigliano un po' più ai gorilla delle donne. Messo a nudo grazie a una nuova tecnica di sequenziamento più veloce e meno costosa, che potrà essere utile non solo a proteggere i gorilla dal rischio estinzione, ma persino a studiare le malattie genetiche legate al sesso maschile, infertilità inclusa. E questo era la notizia extra. Adesso invece sono dentro i vostri messaggi nella pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Quello che vi chiedevo all'inizio è: per il centrodestra a Roma, visto che c'è ancora un po' di confusione sui candidati, chi vedereste bene come candidato ufficiale del centrodestra a sindaco o a sindaca di Roma? E per gli Stati Uniti invece, visto che la corsa è ormai quasi a due per i repubblicani Donald Trump e per i democratici Hillary Clinton, vi chiedo chi vedereste bene alla guida dello Stato più potente del mondo. Enzo Scrive: io non ho dubbi, Scajola è il candidato ideale, del nord ha una conoscenza e una vista su Roma unica, vincerebbe a mani basse. Se gli Stati Uniti non fossero il più importante e influente paese del mondo, mi piacerebbe vedere Trump all'opera. Penso che tutti i giorni ne sparerebbe qualcuna per poi smentirla il giorno dopo, come ai bei tempi di Silvio Umberto, dice Enzo. Mi devi perdonare, mi piacerebbe scrivere qualcosa di serio, ma come si fa? Marco invece propone il mago Zurli per Roma, forse l'unica persona che potrebbe riuscire a non impantanarsi nello schifo dei palazzi romani. Roberto: credo che Salvini, se coerente, dopo aver fatto i gazebo, dovrebbe appoggiare il vincitore ufficiale di queste primarie, cioè Marchini. Ma parlando di Lega, dice, non c'è riconoscenza. Maurizia: a Roma serve una persona che abbia molto coraggio, che sia sostenuta da una parte da un partito con molto molto coraggio per far fronte agli intrighi, mafie e corruzioni. Salvini parla tanto, ma in fin dei conti quella della Lega, quando ha avuto il potere, non si sono dimostrati diversi dagli altri. Per gli Stati Uniti, dice, non vedrei bene nessuno dei due. Spero gli americani ci sorprendano, scrive un ascoltatore, e votino Sanders. Da quello che ho letto sembra il meno peggio. Vediamo se riesco a vedere anche il nome, perché questo è WhatsApp, diciamo più macchinoso, vedere i vostri messaggi su WhatsApp. E Fulvia che scrive, dice, visto che siamo una colonia americana, propongo Sanders. 349-238-6666 per gli sms e anche qualche WhatsApp, ma preferisco sms. E sulla pagina Facebook di Effetto Notte le vostre riflessioni. Ci sentiamo proprio a momenti. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Mi fa venire l'uveite Alessandro, che scrive con un WhatsApp, dice: a cosa serve fare questo sondaggio sugli Stati Uniti, visto che noi siamo italiani e non votiamo negli Stati Uniti? Alessandro, allora non freghiamoci di tutto, non ce ne importiamo più di nulla del terrorismo islamico, che sia in Siria, o che sia negli attentati in Francia, o quello che succede in Spagna. Oggi per esempio è stato bocciato al Parlamento il candidato Premier Sanchez. Non ci occupiamo più di nulla, perché visto che non riguarda il nostro piccolo orticello. Insomma, Alessandro, meno male che poi dice: vabbè, in ogni caso la mia preferenza è per Donald Trump, al di là di che sia una buona o cattiva scelta. Insomma, Alessandro, che razza, diciamo, di argomentazioni. Poi invece scrive un altro ascoltatore, prima l'ok, questo è su Salvini invece, perché dicevo, le domande che vi sottopongo questa sera è per quanto riguarda il centrodestra, che ancora sembra un po' in alto mare sulla candidatura a Roma come sindaco o sindaca, chi proporreste tra i nomi che avete sentito, o anche qualche nome diverso, ripeto, per il centrodestra. E per gli Stati Uniti invece, visto che la corsa ormai è emerso da ieri che è a due, Donald Trump, Hillary Clinton, chi vedreste alla guida degli Stati Uniti? Valentino dice: prima l'ok per Bertolaso, poi raccolta firme, poi proposta di primaria di Serie A, adesso ok per la Meloni. Per Roma bisogna aspettarsi una nuova idea ogni giorno, diversa da Salvini, chiede Valentino su WhatsApp. Un altro ascoltatore scrive: nessuno, non vedo nessuno, e neanche per il PD. Emanuele: la Pivetti potrebbe essere un buon candidato sindaco, intelligente, onesta, esperienza politica ad alto livello e anche di bella presenza, che nell'età della comunicazione non guasta. Questo al 349-238-6666. Poi un altro ascoltatore scrive: per Roma candidato sindaco Marchini, con Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Per gli Stati Uniti Trump. Daniele: per un centrodestra che è arrivato alla frutta, Giorgia Meloni forever, dice Daniele. Continuate con le vostre riflessioni, vi ricordo intanto le notizie più importanti della giornata. Allarme dei 007, rischio terroristi fra i migranti dai Balcani, l'Italia sarebbe più esposta alla minaccia della Jihad, allerta anche per gli europei di calcio, l'abbiamo appena sentito con il nostro Dario Ricci. Il Super Tuesday lancia Hillary e Trump verso la nomination, corsa a due praticamente, anche se i candidati Sanders e Cruz cercano di resistere. Renzi: basta polemiche, il paese si blocca, 2,5 miliardi annuncia per la ricerca. E poi il Senato che approva con la fiducia l'omicidio stradale. Regeni, una nuova versione dell'Egitto, Egitto che insiste, è stato il terrorismo. La Farnesina, il Ministero degli Interni e degli Esteri italiano, dice: abbiamo ricevuto i primi materiali investigativi, anche se vedevo che sono in arabo e molto lacunosi, ma insomma poi ci aggiorneremo. Nozze fra il quotidiano La Repubblica e La Stampa, nasce il primo gruppo italiano editoriale, ne parleremo anche di questo. E poi pedofilia, la confessione del vescovo Pell: sono stato ingannato, le vittime dicono al Papa ci vuole un impegno sui bambini abusati del passato e del futuro. Dichiaro chiusa la votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello del disegno di legge numero 859D nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Senatori presenti 169, maggioranza 84, senatori votanti 167, senatori favorevoli 149, senatori contrari 3, senatori astenuti 15, il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge. E questo era il presidente del Senato Grasso, che ha annunciato il via libera al reato di omicidio stradale, che quindi è diventato legge con questa fiducia posta dal governo. L'avete sentito, è passata la fiducia con 149 sì, 3 no e 15 astenuti. Tra i punti principali di questa legge vengono inasprite le pene per i pirati della strada, c'è l'obbligo di arresto in flagranza per chi alla guida è ubriaco, drogato, provochi incidente mortale, e c'è il carcere fino a 15 anni con aggravanti per chi fugge. Praticamente questo testo che è stato licenziato oggi è lo stesso che era stato approvato alla Camera nella seduta del 21 gennaio 2016, con l'accoglimento però di un emendamento, una modifica che esclude l'arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale derivi il delitto di lesioni personali colpose se il conducente si ferma e presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità. Saluto Giuseppe Cucca, che è senatore del PD nonché relatore del disegno di legge sull'omicidio stradale. Senatore Cucca, buonasera. Buonasera a lei. Renzi ha twittato, più che ha detto twittato, grande twittatore, è stata dura ma finalmente abbiamo la legge. È stata dura, un percorso estremamente travagliato sicuramente di questo iter legislativo, ma l'abbiamo portata a casa, così come questo governo aveva promesso e come il Parlamento appunto si era impegnato a fare. Se dovesse dire, io ho proprio riassunto in modo estremamente sintetico i punti principali, di cosa è più soddisfatto Cucca di questa nuova legge? Credo la cosa principale sia quella che finalmente si dà risposta seria alla domanda di giustizia che è estremamente diffusa nel nostro paese a seguito di quegli episodi gravi di cui si è parlato tanto e che hanno riempito le cronache anche recenti, e cioè i sinistri stradali da cui derivi la morte di persone assolutamente incolpevoli che si trovano casualmente a transitare nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, travolti da persone che si mettono alla guida dei veicoli sotto l'effetto di sostanze alcoliche stupefacenti. Questo credo che sia il risultato principale di questa legge. Ho visto le associazioni pro hanno scritto, associazioni sostenitrici di questa legge, che sono soddisfatti per una legge che rivoluziona totalmente, dicono, il peso delle responsabilità a carico di quanti uccidono sulla strada dopo aver commesso alcune violazioni gravi, prime fra tutte abusi di alcol e droga. Dico, si passa dall'impunità sostanziale, quasi impunità, che c'era fino a qualche tempo fa, a queste sanzioni più pesanti. Senta, da un punto di vista invece politico, senatore Cucca, mi dice che cosa è successo, perché è stata posta la fiducia, quindi il Movimento 5 Stelle ha protestato perché dice questo ci ha impedito come opposizione di votare, ci tengono fuori da questi giochi, e in più si sono salvati ancora una volta grazie ai verdiniani. Ma intanto questo non è assolutamente vero, quest'ultimo passaggio, perché i verdiniani non hanno votato, quindi non è assolutamente vero, hanno spiegato anche esaustivamente col senatore Falanga il perché non avrebbero votato la fiducia. Però sono rimasti in aula, quindi hanno assicurato il numero legale, no? Il punto è un altro, che io credo che noi siamo lì non per fare ostruzionismo, per impedire che le leggi vengano portate a casa, noi siamo lì per legiferare. Quindi l'atteggiamento assunto stasera da quelli che non hanno partecipato al voto era semplicemente quello di prendersi il gusto di non far approvare una legge, tentando appunto di far mancare il numero legale. Credo che sia un fatto di responsabilità e di adempimento del dovere per quale siamo stati dei doveri per i quali siamo stati mandati in quell'aula. Senatore Cucca, diceva la ministra Boschi che è stata necessaria la fiducia per dare una fine certa a questo iter parlamentare che è stato piuttosto lungo, diceva. Sì, la fiducia è stata posta proprio per quello, per evitare eventuali imboscate con richiesta di voti segreti, eccetera, anche perché purtroppo oggi avevamo in maggioranza numerose assenze determinate da malattia, c'erano numerosi colleghi malati o fuori per missioni, insomma. Un'epidemia. Quindi, insomma. No, non un'epidemia, però cioè, stasera le faccio presente, sono venute delle persone con la febbre a 40 per votare, chi se l'è sentita è venuta, chi invece non se l'è sentita, non è riuscita a venire, non è venuta. Senta, però, mi dice, mi toglie assolutamente assenza giustificata. Una curiosità, senatore Cucca, rispetto a una legge che in tanti comuni cittadini no, aspettavano da tanto tempo, che cosa c'è che non, per esempio al gruppo Ala, ai Verdignani, non ha permesso di votare, qual era la contrarietà? Ma anche di chi non ha votato, insomma. No, il problema è questo, è che come abbiamo riconosciuto e detto tutti, ci sono alcuni temi che avrebbero potuto essere anche trattati in maniera più esaustiva, ma c'è il fatto che è in corso di approvazione, in corso di discussione veramente, davanti all'ottava commissione la riforma del codice della strada, e necessariamente bisognerà fare delle operazioni di coordinamento con la nuova stesura del codice della strada. In questo senso, quindi, probabilmente si pensava di poter fare tutto in questa legge, ma sarebbe venuto fuori un sistema assolutamente disorganico. Comunque, quindi, per questo motivo c'è stata la sostanziale adesione all'impianto della legge, ma con delle riserve, e soprattutto per il fatto che in precedenza, per esempio, il gruppo Ala ha detto sarebbe assolutamente non coerente votare oggi ciò che non avevamo votato l'ultima volta che è passata al Senato. Le ricordo che la modifica che è stata portata alla Camera nella quarta lettura era una modifica di due righe, quindi l'impianto della legge ovviamente è rimasto assolutamente identico. Comunque, a questo punto la legge sull'omicidio stradale c'è. La ringrazio, senatore Cucca. Figuri. Grazie a lei. Buon lavoro, buona serata. Grazie. Prima di questa pausa di ricreazione volevo ancora guardare i vostri messaggi. Dice Gian: Trump presidente con Hillary. Le battute. Un altro ascoltatore critica fortemente l'altro ascoltatore che aveva scritto che cosa ci interessa visto che noi non siamo americani. Dice: ma si rende conto, tra l'altro, costui che un tipo come Trump ha in mano la valigetta per lanciare missili termonucleari in tutto il mondo? Giacomo: elezione a Roma, scrive al 349-238-6666. Soprassedere o lasciare il prefetto, cioè il prefetto Tronca in questo momento che sta tenendo in mano Roma, diciamo, almeno si tratterebbe di persone più preparate e competenti nella media del politico di turno e non sarebbe un vulnus alla democrazia trattandosi di elezioni amministrative e non politiche. Ancora i vostri messaggi. Bruno scrive: per Roma non importa il colore politico, ma serve una figura autorevole e decisa col potere di cacciare tutti coloro i quali sono stati la causa del degrado di Roma. Ora questo potere non è in capo al sindaco, causa una legge che prevede la separazione fra componente politica e componente operativa dei comuni. Continuate con le vostre riflessioni, con le vostre proposte anche rispetto a chi preferireste la guida degli Stati Uniti tra Donald Trump e Hillary Clinton e chi anche vedreste bene come candidato o candidata del centrodestra a Roma. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Note, ci sentiamo un momento. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in Digital Radio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto nel momento giusto e anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano sempre con voi. I vostri messaggi continuano alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Le domande che vi ho sottoposto questa sera sono: per il centrodestra, visto che sono ancora un po' piuttosto confuso in alto mare, diciamo, per la candidatura a Roma al sindaco di Roma, e Salvini oggi sapete che ha detto no, basta, su Bertolaso è chiusa, se si propone Giorgia Meloni io la voto, è la mia candidata, insomma, ancora quindi non c'è un accordo. Voi chi vedreste bene come candidato, come candidata a sindaco del centrodestra a Roma. E poi, visto che ieri dal Super Martedì, dall'evento più importante delle primarie negli Stati Uniti, sono emersi, come già ci si aspettava, per i repubblicani Donald Trump e per i democratici Hillary Clinton, chi vedreste bene alla guida degli Stati Uniti? Leggo ancora qualche vostro messaggio tra i tanti che arrivano. Willy scrive: neanch'io dubbi, miglior candidato sindaco per Roma per i suoi contatti e per le sue più volte dimostrate capacità gestionali, Cardinal Bagnasco. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, vincerà Hillary, ma con Donald ci divertiremo molto di più. Elena: per Roma vedrei bene l'onorevole Salvini, avrebbe finalmente la possibilità di mettere in pratica tutto ciò che propone giorno dopo giorno per Roma. Per gli Stati Uniti invece la signora Clinton. Giuseppe scrive sulla pagina Facebook: per governare Roma ci vogliono dei manager giovani e bravi, che in Italia ci sono, perché i politici hanno fallito tutti. Trump sta giocando come ha fatto Berlusconi in Italia. Trump è un pericolo, dice Giuseppe. Maria Cristina: per Roma ci pensino i romani, per gli Stati Uniti, data la loro ingerenza mondiale, ci dovremmo augurare non quel fuori di testa di Trump. E poi invece al WhatsApp, vediamo se riesco a vederlo: credo che Trump cercherà d'ora in poi di ingraziarsi il voto dei moderati con toni decisi ma molto molto più pacati di prima. Adesso vi ricordo, prima di affrontare il prossimo argomento, il prossimo ospite, le notizie più importanti della giornata. Terrorismo, allarme di 007, rischio terroristi fra i migranti dai Balcani, e l'Italia è più esposta alla minaccia della Jihad. Stati Uniti, nelle primarie del Super Martedì trionfano Trump e Clinton, è ormai quasi una corsa a due, ma Sanders e Cruz ancora resistono. Spagna, il congresso boccia l'investitura primo ministro del socialista Sanchez. L'omicidio stradale è legge, al Senato votata la fiducia, inasprite le pene per i pirati della strada. Il delitto di Giulio Regeni, l'Egitto cambia versione, dietro la morte ci sarebbe il terrorismo islamico, alcuni documenti sulle indagini consegnati agli italiani ma solo in arabo. Fondi per la ricerca, Renzi annuncia finanziamenti per 2,5 miliardi. L'annuncio dal laboratorio di Pomezia, che ha isolato il virus contro l'Ebola. Editoria: nasce il primo gruppo in Italia dalla fusione tra Repubblica e La Stampa al secolo XIX. Per il calcio, in Coppa Italia semifinale Inter-Juventus, sempre 1-0 per la Juventus. Quindi concentriamoci a questo punto su questo rapporto annuale del Dipartimento che coordina l'attività dei servizi segreti, quindi una relazione annuale praticamente dei nostri servizi segreti, dalla quale emerge un allarme terrorismo per il nostro paese. Se ne parla da tempo, non so se in realtà lo prendiamo sotto gamba, non ci pensiamo, forse è anche meglio non pensarci, diciamo, da persone comuni, altrimenti cambia troppo la vita. Ma da questa relazione annuale il nostro paese risulta sempre più esposto a possibili attacchi terroristici, come è successo in Francia, così si legge in questa relazione. Ci sarebbe un doppio pericolo: da un lato c'è, leggo, la minaccia strutturata che promana direttamente dall'organizzazione terroristica, sia essa l'ISIS o Al-Qaeda, di cui proprio la competizione con ISIS da parte di Al-Qaeda potrebbe rafforzare la determinazione a intervenire sulla scena globale con atti eclatanti. Quindi mettersi in competizione tra organizzazioni terroristiche e voler essere più eclatante, più visibile dell'altra. Dall'altro, l'altro pericolo è la minaccia puntiforme riferibile all'universo composto di elementi autoctoni ed autoreclutati, rendendo quest'ultima ancora più concreta e attuale, così si legge in questa relazione. Insomma, un documento, questo dei servizi segreti, tutto incentrato su rischi derivanti da uno scenario internazionale che, come sappiamo, è sempre più condizionato da conflitti locali, dalla presenza di organizzazioni terroristiche. Ne voglio parlare con Arturo Varvelli, responsabile dell'osservatorio sul terrorismo dell'ISPI ed esperto, grande esperto di Libia. Arturo, buonasera. Buonasera. Quindi diciamo che è piuttosto inquietante questo rapporto dei servizi segreti. È vero che se ne parla da un po', che anche l'Italia, come altri paesi europei, può essere a rischio, però mi sembra che con questa relazione si dica qualcosa di più concreto, di un pericolo più vicino. Sì, beh, insomma, vederlo per scritto forse e detto soprattutto dai servizi segreti piuttosto che dai nostri politici, seppur naturalmente rappresentativi, è certamente qualcosa che può essere più emotivo. In realtà non ci sono grandissimi elementi di novità nel documento, cioè diciamo che sono già tutte segnalazioni che ormai gli esperti trattano e analizzano ormai da diverso periodo, comprese le due possibilità, naturalmente quello di una sorta di nascita che già in parte è avvenuta di jihadismo autoctono, cioè jihadismo che si fonda nei cuori e nelle menti purtroppo delle persone che vivono sul territorio italiano, che si siano cittadini italiani compiutamente oppure cittadini stranieri che vivono in Italia ma che sono, come dire, sociologicamente attivi in Italia, e questo è un rischio. La seconda, forse più evidente novità, non è questa, abbiamo, seppur in questo primo caso abbiamo visto che ci sono diversi casi che si stanno sviluppando e nel corso di 2 o 3 anni il fenomeno ha acquisito numericamente, ha fatto dei passaggi che possono essere inquietanti. Il secondo elemento, forse quello più interessante, che parla di una competizione tra Al-Qaeda e lo Stato Islamico. Certamente questo può essere un elemento preoccupante, una competizione che non riguarda naturalmente solo il territorio italiano, ma più in generale il territorio europeo e quello occidentale, ancora più vasto, e che quindi può far presupporre che per motivazioni di leadership, diciamo, all'interno della galassia jihadista, del mondo radicale islamico, si innesti una competizione a dimostrazione di chi è l'elemento più pericoloso e chi può rivendicare più o meno giustamente, ma questo viene fatto, una leadership del mondo radicale islamico. Barbelli, però, tra l'altro, sempre in questa relazione si dice in primo luogo, per noi ha grande importanza, essendo anche così vicina, la Libia, la cui stabilizzazione resta determinante non solo in un'ottica di sicurezza regionale dell'area, ma anche appunto di prevenzione della minaccia terroristica e di tutela degli interessi nazionali. Sì, è certamente così. Avere una Libia instabile, così vicina e anarchica e, come dire, preda delle possibilità di espansione dello Stato Islamico, cosa che sta avvenendo, per essere sinceri, certamente non è preoccupante. Che in realtà questa possa essere utilizzata come base per attentati terroristici diretti sul territorio italiano è tutto da dimostrare. Rimane un rischio, diciamo, potenziale. Certamente ci preoccupa e preoccupa direttamente i nostri interessi. E quando parliamo dei nostri interessi pensiamo alla stabilità del Mediterraneo, alla questione dell'immigrazione, alla questione dei traffici illeciti, alla questione semplicemente anche delle nostre necessità energetiche, quindi naturalmente è una minaccia molto rilevante e molto importante. Io penso che però quello che bisogna evitare è una sorta di caccia al terrorista islamico radicale dell'ISIS solamente dal punto di vista militare. Noi stiamo vedendo tutto sommato che un'unica strategia basata su un intervento militare non è una garanzia alla distruzione dello Stato islamico. Lo vediamo in Siria e in Iraq, dove i bombardamenti certamente hanno alimentato l'azione dello Stato islamico, ma questo ha continuato in qualche maniera a esistere, continua a esistere nonostante una campagna molto violenta contro di esso. E continua e si alimenta proprio lo Stato islamico anche di questa campagna che viene fatta nei suoi confronti, e questo sta permettendo ad esempio adesso il passaggio di alcuni combattenti dalla Siria alla Libia, ad esempio. Quindi è una sorta di, come dire, cerbero a più teste. Quindi se ne tagliamo una ne spuntano altre da altre parti, quindi diciamo che la sfida è più propriamente politica ed è una sfida che è molto più difficile, molto più complessa, che coinvolgerà diversi anni, ma che deve tenere presente qual è l'obiettivo politico, ossia la stabilizzazione di queste aree. Una stabilizzazione reale che non può essere frutto, diciamo, unicamente dell'imposizione di attori che si rifanno a regimi violenti e autocratici, perché abbiamo visto che in passato questo ha in realtà prodotto proprio questo tipo di deformazione, ma deve essere qualcosa di più e maggiormente inclusivo. Quindi se noi guardiamo a tutte queste aree stabili, il primo punto non è certamente, secondo mio giudizio, contrastare lo Stato islamico, che deve essere fatto parallelamente, ma il primo punto deve essere il tentativo di ristabilizzare queste aree, e questa è certamente una sfida molto più complessa. Certo, processi lunghi e molto complessi. Grazie Arturo Barbelli dell'ISPI. Grazie a voi. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, ancora i vostri messaggi prima di ricordarvi le notizie più importanti. Se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quindi vi dicevo chi vedreste per il centrodestra come candidato a Roma per la capitale, come sindaco o come sindaca, e chi invece tra Hillary Clinton e Donald Trump alla guida degli Stati Uniti. Rick da Trieste al 349-238-6666 scrive: primarie Stati Uniti, certamente tifo per Hillary, soprattutto per rivedere il grande Bill alla Casa Bianca, che a questo punto sarà first mister, diciamo. Poi Stefano sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: Meloni a Roma perché conosce la città, e poi per gli Stati Uniti non conosco la realtà americana, per cui non esprimo giudizio. Beh, ti sarei fatto un'idea però, Stefano. Giuseppe, Virginia Raggi, vabbè, di Movimento 5 Stelle, io ho chiesto per il centrodestra, non credo che Virginia Raggi si candiderebbe per il centrodestra. Giovanni dice: Meloni a Roma e Trump per gli Stati Uniti. Alberto scrive: Donald Trump for president. Walter sceglie Giorgia Meloni come candidata per il centrodestra a Roma e Clinton invece per gli Stati Uniti. Michele chiede un tedesco a Roma e Clinton negli Stati Uniti. Tedesco, quindi molto rigore, almeno così diciamo negli stereotipi, secondo Michele. Tra poco lo spazio europeo, ma vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Dicevo, questo allarme degli 007, la relazione annuale dei servizi segreti italiani, secondo i quali c'è il rischio terroristi fra i migranti dai Balcani e l'Italia piuttosto esposta alla minaccia della Jihad. C'è un'allerta anche per gli europei di calcio. E poi dal super martedì delle primarie americane trionfano Hillary Clinton e Donald Trump verso la nomination. È una corsa ormai a due, anche se ci sono i candidati repubblicano Sanders e democratico Sanders e repubblicano Cruz che resistono. Rubio ormai è quasi fuori. Renzi dice: basta polemiche, il paese si sblocca, annuncia 2,5 miliardi per la ricerca. Il Senato ha approvato con il voto di fiducia l'omicidio stradale. C'è la protesta del Movimento 5 Stelle sul disegno di legge sui mutui, anche se il PD dice c'è la possibilità di modifiche. Intanto si annuncia un voto di fiducia sulle unioni civili anche alla Camera. Sul delitto Regeni, l'Egitto insiste, è stato terrorismo, questa è la nuova versione. Intanto la Farnesina ha ricevuto i primi materiali investigativi. E poi ci sono le nozze fra questo grande gruppo editoriale, fra Repubblica e La Stampa, nasce quello che è considerato quasi uno dei principali gruppi editoriali europei. Ne parleremo più tardi. Per la partita invece qualcuno, forse qualche juventino ha sperato, qualche interista si è spaventato, ho detto Inter-Juventus 1-0 per la Juventus, no, chiaramente 1-0 per l'Inter. Europa 24 notte. Nello spazio europeo di oggi il tema è giovani e agricoltura. Sapete che da qualche tempo molti giovani in Italia, anche diciamo, in questo lungo periodo di crisi occupazionale, stanno riscoprendo le professioni legate all'agricoltura, e si sta registrando proprio un aumento delle domande per aprire un'azienda agricola presentate proprio dai giovani. E che cosa fa in questo senso l'Unione Europea? Come interviene? Con finanziamenti europei appunto per i giovani agricoltori. Quali sono però questi finanziamenti europei a disposizione i giovani agricoltori previsti dalla politica agricola europea comune per aprire un'azienda agricola? Quali sono gli incentivi previsti dalla Banca Europea degli investimenti? Ne parliamo con Paolo De Castro, europarlamentare, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Bentornato, onorevole De Castro. Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro, visto che c'è proprio domani una chat, si chiama chat questa, sì, per sulla pagina Facebook di ANSA Europa, per con degli esperti, sì, che spiegano a chi volesse appunto capire come ricevere questi, sì, finanziamenti europei, no? Sì, assolutamente sì. Innanzitutto la buona notizia è proprio quella che diceva lei, c'è un ritorno di giovani in agricoltura e si registra non soltanto a livello di imprenditori giovani che iniziano questo mestiere, ma anche come iscrizione alle facoltà di agraria, agli istituti tecnici. C'è effettivamente un ritorno, questo è molto importante perché purtroppo il nostro paese ha una percentuale di giovani agricoltori sul totale degli imprenditori agricoli molto bassa rispetto ai nostri partner europei. Cosa fa l'Europa? Agiamo su due versanti, il primo quello tradizionale e sulle misure di sviluppo rurale, sono i cosiddetti PSR, i piani di sviluppo rurale che preparano le regioni italiane e che hanno al loro interno delle misure specifiche che si chiamano proprio primo insediamento, cioè si sostengono i giovani imprenditori quando si avvicinano per la prima volta a questa attività. Ma la novità importante che nasce invece da questa nuova PAC che abbiamo riformato la scorsa legislatura è l'aiuto ai giovani permesso anche nelle misure cosiddette di aiuto diretto, cioè se un imprenditore ha meno di 40 anni potrà avere fino a un 25% in più per ettaro di aiuto da parte dell'Unione Europea. Stiamo parlando quindi di circa un centinaio di euro in più per ettaro rispetto a un imprenditore non più giovane. Sono comunque, onorevole De Castro, finanziamenti, aiuti, nel senso che poi non devono essere restituiti, no? No, questi sono aiuti che rimangono ovviamente in vigore fin tanto che l'imprenditore mantiene la qualifica di imprenditore giovane, quindi sotto i 40 anni, e il primo insediamento invece è un aiuto spot, cioè si dà un aiuto all'inizio e basta, e poi può arrivare fino a dipende dalle varie regioni, ma insomma sui 40-50 mila euro, però è un aiuto che si dà una volta sola e basta. Diceva quantitativamente 100 ettaro per ogni 100 euro per ogni ettaro in più, ma quanto potrebbe essere così una somma giusto iniziale? Cioè, la media, cioè oggi un imprenditore agricolo come aiuti diretti percepisce sul seminativo intorno mediamente, poi c'è chi piglia di più, chi piglia di meno, ma insomma mediamente intorno ai 300, 400, 500 euro ettaro. Ah, sì. Un 25% in più è riservato ai giovani e soprattutto è riservato in maniera obbligatoria, cioè lo Stato membro non decide, lo Stato membro deve pagare questo plus agli agricoltori giovani. E poi ecco, dicevo, a partire dalle 14 sarà possibile partecipare a questa chat pubblica sulla pagina Facebook di ANSA Europa, così si mettono direttamente i giovani in contatto. Onorevole Paolo De Castro, assolutamente sì. La ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Grazie, buona continuazione. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Sentivate dai titoli della nascita del più grande polo editoriale italiano, ne parleremo tra pochissimo, ma volevo leggere ancora due messaggi. Fabrizio da Firenze: per Roma è giusto confrontarsi all'interno della destra, perché se si trova un candidato unitario la destra vince, programmi chiari per sicurezza, degrado e commercio azzerando le mafie non solo italiane ma anche cinesi. Con coraggio va bene la Meloni, va meglio Bertolaso, ma chi rischia il sostegno ai veri romani, non ai ladri, dice Mimmo da Teramo. Sto andando tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, dice Mimmo, sindaco di Roma per tutti, il pugnace instancabile Giorgio Napolitano, ho detto per il centrodestra. Vabbè, torniamo sugli argomenti. Vi dicevo, è stata annunciata la nascita del più grande polo editoriale italiano. Fiat Chrysler Automobile ha siglato un memorandum d'intesa per una fusione tra Itedi, che è la società nell'editoria di Fiat Chrysler, e il gruppo editoriale L'Espresso. Nasce quindi un gruppo da 750 milioni di euro senza debiti e da circa 5,8 milioni di lettori. Vi chiederete perché? Lo chiediamo a Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera a voi. Come mai questa fusione, Andrea? Non perché andassero male, no? No, non perché andassero male, in particolare il gruppo L'Espresso, che ha approvato dei conti con un utile addirittura raddoppiato. Ma bisogna dire che molto probabilmente è un giocare d'anticipo rispetto a delle tendenze che sembrano diventare sempre più evidenti sul mercato. Allora, non bisogna dimenticare che gli editori ormai non concorrono più solo fra di loro, ma gli editori concorrono anche con i cosiddetti over the top per quello che è il vero bottino, che è il tempo delle persone. Il tempo delle persone che può essere dedicato alla lettura dei giornali, in Italia lo è stato sempre troppo poco, ma che può essere dedicato alla fruizione di contenuti che sempre di più esulano dal contesto dei quotidiani e dell'editoria cartacea. Ora, cercare di combattere, diciamo, questi colossi facendo sinergie è sicuramente una presa di posizione importante, una presa di consapevolezza importante. C'è questo e c'è quindi la necessità di fare sinergia in un mondo che comunque negli ultimi tempi ha perso ricavi, soprattutto per colpa di una pubblicità che si è più che dimezzata negli ultimi anni. Andrea Biondi, senti, ma questo non significa che sparisce Repubblica o La Stampa o il Secolo XIX, perché mi pare di aver letto ci sarà piena indipendenza delle testate, quindi rimangono così come sono? Allora, innanzitutto l'operazione avrà un closing, cioè sarà perfezionata entro il primo trimestre del 2017 e quindi dovrà passare tutto quest'anno. Servono delle necessarie autorizzazioni regolamentari, quindi diciamo l'operazione alla fine avrà una gestazione abbastanza lunga. Non scompariranno le testate, si crea un unico gruppo, cioè Itedi, la società editoriale controllata dalla Fiat che edita La Stampa e il Secolo XIX, verrà sciolta nel gruppo L'Espresso. Quindi sarà un gruppo L'Espresso che avrà tutte queste testate, avrà anche La Stampa e il Secolo XIX all'interno, diciamo, della sua scuderia. Quindi le percentuali a un certo punto diventa 100%? Non ho capito. Certo, fanno tutte parte del gruppo L'Espresso e all'interno del gruppo L'Espresso poi ci saranno varie percentuali, cioè la CIR sarà azionista, esatto, di De Benedetti sarà azionista al 43%, Exor, la cassaforte degli Agnelli, sarà al 5%, la famiglia Perrone, che è all'interno di Itedi, che appunto edita La Stampa, e il secolo XIX, erano i proprietari del secolo XIX, avranno nel nuovo gruppo il 5%. Gli altri azionisti di Fiat Chrysler avranno un 11%. C'è da dire che questa operazione porterà un'altra cosa importante, il disimpegno di Fiat Chrysler dal Corriere della Sera, da RCS, quindi insomma questo è chiaramente un risico che ha un impatto che va ben poi al di là di questa operazione, in cui ricordiamo sono coinvolte La Repubblica, che è il terzo quotidiano italiano per diffusione complessiva di copie cartacee e digitali. La Stampa si gioca con La Gazzetta dello Sport, il quarto e il quinto posto, molto più in giù diciamo il secolo XIX, ma alla fine fra Stampa, Repubblica, secolo XIX e tutti i quotidiani locali che fanno parte di Finegil, che è il gruppo L'Espresso, parliamo comunque di una realtà importante, da oltre 800.000 copie diffuse ogni giorno fra copie cartacee e copie digitali. Chiarissimo Andrea Biondi, quindi uno dei principali gruppi italiani, forse anzi il più grande polo editoriale italiano, dicevamo uno dei più grandi europei. Grazie Andrea Biondi del Sole 24 Ore, noi ci risentiamo alle 22.